mezzo al traffico, tratto come io sono dal suono del solo fascino. Come scomparire nel bulbo quando ti guardano, come travestirsi da adulto quando ti affascino. Dal viso chiaro che credi a quel che diciamo, spiega il paesaggio urbano che Cristo lo reincarniamo. Ti prego non lasciarci soli, che tra noi ci suicidiamo. Non posso aprire la finestra se sto al quinto piano. Ti sembra strano, ma è strano il titanio che anima. Mi sembra di piangere le rime per allagarmi la camera. Non ho più un salvagente, l'affronta la carica. Qui non si salva niente come se entrassi in politica. Ma vaffanculo, la mia gente c'ha nessuno. Sta per quei tre giorni dentro e torna col fumo nel culo. E io che studio, mi invento d'essere sano. Rimasto in mezzo al giardino mentre c'è ancora il diluvio. La morsa del pitone stringerà, nel becco di un piccione morirà, visibile nei gesti di chissà, che l'occhio del ciclope piangerà, Le nuove idee che paiono tutte buone, con il culo al sole, io te mare nell'occhio del mio ciclone interiore. Ti sembra strano ma è normale non capirci, ti sembra il caso di eclissarti tra i capricci. L'immigrazione ha dato pane con ati di solo sale, contate come i contabili, camera farsi pare, zuppare compare, succate i cazzi dei vostri idoli, tratta zuccherare cocktail, cooking tea. Siamo distratti dall'ampli con tanti cantanti, e qui scrausi vari rubano soldi agli scarti. Indirizzami una lettera e maci, polvere magica, sta gente caschi male a gente, nessuno che collabora. Ogni mattino il mio cervello è dispersivo, disperato sorrido, si insinua un ghigno sul viso ma senza invito. Scrivo di getto convinto che il traffico possa bloccarsi, fermarsi, ridere e ammalarsi. La morsa del pitone stringerà, nel becco di un piccione morirà, visibile nei gesti di chissà, che l'occhio del ciclope piangerà, Ho lasciato un pezzo incompleto di questo puzzle. Il successo è peggio di un amplesso con il cazzo in mano. Manifesto la calma di chi sorride nel disagio. Se mio padre resta al cielo e mia mamma al sole lontano, solo come Plutone contro la massa Plutone. La carcassa di nazione manda geni in depressione. Se ci temi i problemi sui temi, la rivoluzione morta negli anni 70 tra cravatte del telepadrone. Preferisco un povero Cristo coi crisantemi a chi ama con la grana puttana con dei diademi. E se non ho più voglia di uscire dai vostri schemi, bevo per dimenticarmi il peso dei pensieri astemi.